Annora che sei partita, come ti va la nuova vita? Hai l'aria felice sfinita, forse per la vita che fai. Ricordo che hai preso di corsa quel monolocale lì a Londra, però lì l'affitto quanto costa e fai la cameriera part time. Anna, volevi scappare, andare via da tuo padre che non ti faceva studiare più. E c'è la tua faccia in TV a chi l'ha visto, nessuno ha il tuo numero, sa il tuo indirizzo, a parte me. L'hai detto solo a me. E scapperai da mille guai, ritornerai solo se il cielo è sereno. Non mai ai ai, ti pentirai e senti l'aria con la mano fuori da quel treno che va, che va, che va, che va. Anna, sono passati gli anni, siamo diventati grandi, e se ritorna a cercarti è davvero importante, lo sai. Lo so che casa non è cosa, ma tuo padre da un po' che riposa, dovresti portargli una rosa. Il primo passo per essere un uomo non è la forza, lo sai che è il perdono. Sei Marilyn, io sono Andy Warhol, lei sorridimi se ti coloro. Il primo passo per essere donne è curare ferite profonde. Quindi torna a casa questa notte, quindi torna a casa questa notte. E scapperai da mille guai, ritornerai solo se il cielo è sereno. Non mai ai ai, ti pentirai e senti l'aria con la mano fuori da quel treno che va, che va, che va, che va. Allora che sei tornata, tua madre ti vede cambiata, ma ti apre la porta di casa. E scapperai da mille guai, ritornerai solo se il cielo è sereno. Non mai ai ai, ti pentirai e senti l'aria con la mano fuori da quel treno.